Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio. Oggi è il 12 di maggio e questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che si occupa prevalentemente di cronaca o di politica locale. Torniamo sulla campagna elettorale delle amministrative dopo il confronto scontro tra Letizia Moratti e Giuliano Bisapia. Partiamo da un altro punto di vista, il racconto, la narrazione delle città. Vanessa Quinto ha intervistato il giornalista Michele Sera su Milano, la cultura, la politica. Secondo la sua esperienza personale e professionale, quali grandi cambiamenti ha notato in Milano negli ultimi anni? Negli ultimi 20 anni molto pochi, e questo forse è proprio il problema, no? È come se Milano vivesse sull'onda della Milano da bere ancora, quindi della moda, della pubblicità. È una città che vive un po' di riflesso da quel periodo, è come se gli anni 80 non fossero mai finiti. Non so se questo sia anche paradigmatico del paese, ma insomma c'è un senso di stasi. Milano è stata per tanti anni, in passato ovviamente, la città del pensiero in qualche modo. Adesso si può dire che sia più una città dell'azione, dove c'è meno pensiero. Mi riferisco appunto, come lei ha detto, al marketing, alla pubblicità, all'economia. Cos'è dell'illuminismo lombardo? Non ci sono più grandi pensatori? Diciamo intanto che rispetto al dopoguerra, che nel senso che il dopoguerra poi arriva fino al boom, fino ai primi anni 60, quella che è cambiata probabilmente anche la struttura sociale della città, nel senso che Milano era una città tanto di fabbriche, quindi era fondamentalmente una città di operai e di impiegati, di borghesi, di ceto medio. Non so se ci sia una relazione tra questa struttura sociale e quella vivacità culturale, forse sì, perché probabilmente da un contrasto anche politico e anche di classe così forte, così vivo, così acceso, così legato anche alla vita della città, dai grandi contrasti nascono le grandi idee, nasce anche la grande cultura. Mi chiedo quale cultura può nascere dalla stasi. Probabilmente se rinascesse un movimento strutturale della città, cioè se cambiasse la sua composizione sociale, rinascerebbero dei conflitti e rinascerebbero i pensatori. Più che pensatori, intellettuali milanesi degli ultimi 20 anni sono produttori di slogan, sono copywriter, sono organizzatori culturali, organizzatori di eventi, come si dice adesso. Naturalmente questo non parla a sfavore del loro talento, ce ne saranno anche di bravissimi. Diciamo che è meno interessante ovviamente la battaglia culturale, cioè ma il fatto che adesso Milano sia comunque una metropoli, tanto che è difficile trovare milanesi a Milano, è stata una ricchezza per la città o un impoverimento, nel senso che è proprio cambiato il tessuto? Ma è stata una straordinaria ricchezza, ma insomma anche lì si vive un po' sugli allori, e voglio dire, nessuno dei grandi milanesi dell'arte e della cultura era milanese, no? Si fa sempre l'elenco, ma insomma Gaber era triestino, Iannacci era pugliese, Valtrecchiari era pugliese, Teo Teocoli è calabrese, cioè Milano aveva questa prodigiosa capacità di assorbimento di energie anche esterne, e per questo del resto si andava a Milano, no? Non so in che misura Milano sia ancora metropoli, mi sembra più metropoli Roma, anche se è una metropoli poi sfasciata, cacciarona, cinica, però diciamo se uno vuole avere un'idea un pochino più a largo raggio di come funzionano le cose, di come funziona l'Italia e anche di come funziona il mondo, è più facile che lo capisca a Roma con tutti i suoi limiti piuttosto che a Milano. Ma Milano, coinvolta nei vari fatti di cronaca e politica che conosciamo, è diventata la ex capitale morale? Ma questo da Tangentopoli in poi è diventato anche troppo facile dirlo, insomma non è che... Milano in pochi aggettivi? Beh, provando ad andare al cuore della città, è una città scorbutica, poco cordiale, con delle virtù quasi tutte nascoste, no? Si dice, è un luogo comune, ma è anche vero che le cose più belle a Milano sono i cortili interni, sono dentro le case, sono i giardini nascosti, e credo che questo sia abbastanza vero, cioè il carattere della città è poco amabile, sembrano scortesi prevalentemente i milanesi, anche quando poi non lo sono, è solo una crosta esterna. Ma lei, che ha raccontato la nostra storia sia in termini di cronaca ma anche di satira, come la vive la satira che fanno di noi all'estero? Con un certo imbarazzo, devo dire la verità, tanto perché è una satira, anche questa un po' vecchia, no? È come se non riuscissimo a uscire dal nostro cliché, che è quello, poi non è colpa neanche nostra, è colpa della persona che ci rappresenta all'estero. Il cliché è quello dell'italiano maschilista, un po' cialtrone, che racconta le barzellette, che cerca di piacere a tutti, che è rumoroso, che fa le corna, insomma. Peraltro gli stranieri hanno già un cliché negativo di alcune nostre caratteristiche, ecco, diciamo che in questo periodo storico siamo riusciti ad entrare perfettamente, ahimè, in questo cliché. Ma ma se i nostri politici più rappresentativi in realtà poi non ci rappresentano sul serio, perché non riusciamo a cambiare? C'è una risposta pessimista, e cioè perché i nostri politici rappresentano invece ciò che noi siamo come popolo. Però in Faust sarebbe concludere che abbiamo la classe dirigente che ci meritiamo. Mi dica che ne abbiamo anche una positiva, non mi lasci con questo. Ecco, l'ipotesi Faust invece è che abbiamo vissuto un periodo molto complicato e anche molto equivoco, nel senso che non abbiamo capito molto bene quello che volevamo fare o che potremmo fare, e che ci sarà un risveglio fondato, ma non tanto sui concetti di vince la sinistra, vince la destra, ma su una migliore qualità di quello che riusciamo a fare, di quello che riusciamo a essere. Quasi una questione di orgoglio nazionale è diventata. Io quando vedo in televisione una persona che non la pensa come me, che sento essere di buon livello, mi sento molto rincuorato, perché mi sembra che questo aiuti anche me e aiuti tutti. Si vota anche a Napoli. Alessandra Tedesco ha chiesto allo scrittore Eri De Luca di raccontarci Napoli. Si parla di scrittura, di identità, di una Napoli antica e moderna. Che rapporto ha lei con Napoli? Un rapporto di provenienza, vengo esattamente da lì, da quella città e dalla metà del secolo scorso. È un rapporto di provenienza con il 1900 e con Napoli. Provengo da quella educazione sentimentale che quella città e quel secolo ha impartito ai miei nervi, ai miei sentimenti. Lì ho imparato il sentimento della compassione, della collera, della vergogna. Ecco, lo spettro di un'educazione sentimentale si è formato lì, e quella città mi ha dato anche la sua madrelingua. Ecco, io sono uno che scrive in italiano, ma proprio preferisco dire scrittore in italiano, non direttamente scrittore italiano, perché sono stato prima napoletano e l'italiano l'ho voluto abitare successivamente, ho voluto stare dentro l'italiano, risiedere dentro la lingua italiana successivamente. Quindi quella città che ho abbandonato a 18 anni e che ho quindi disertato non è la mia appartenenza, ma la mia origine, la mia causa, e io sono un effetto. Quindi nonostante lei viva da tantissimi anni a Roma o dintorni di Roma, si sente ancora napoletano? Sono uno che viene da lì, sì, e lo ribadisco continuamente. Quando ho pubblicato il mio primo libro nel 1989, la Feltrinelli chiese allo scrittore La Capria di aggiungere una sua quarta di copertina, una nota per presentare questo esordiente. E lui scrisse una bellissima quarta di copertina in cui mancava però la parola Napoli. E allora io ebbi la sfacciataggine, la sfrontatezza di dire: no, tu ce la devi mettere la parola Napoli, perché non è ambientato in Svezia, insomma, non è il posto delle fragole, come lui molto affettuosamente voleva connotare quella scrittura. E quindi si sentì costretto a aggiungere questa parola. Mi voleva affrancare dalla denominazione di origine, no? dall'etichetta di scrittore napoletano, ma io ci tengo moltissimo, insomma, a quell'etichetta, perché spiega a me, prima che agli altri, da che parte viene quella scrittura. In quel libro, ma anche in altri suoi libri, si parla di Napoli. Qual è la Napoli che lei presenta nei suoi romanzi? Quella in cui c'ero, e quindi una Napoli remota che attraverso i momenti in cui io ricordo riesco a ricostruire perfettamente intera. Ecco, uno come me che scrive delle storie del suo passato, perché sono appunto storie capitate nei miei paraggi intorno, ha una possibilità visionaria di poterla riallestire così com'era, di poterla ritrovare in tutti i suoi sensi, tutti, insomma. Qui poi cinque ne ho, io non sono dotato di extrasensoriali, sensi aggiunti, ma in quei attraverso quei cinque sensi, ecco, la città si riforma dentro di me, e tutte le volte che scrivo una storia ambientata lì, protagonista è il luogo molto più che le persone della vicenda. Ci sono molti luoghi comuni su Napoli. Qual è quello che lei vuole un po' così sfatare? No, i luoghi comuni a Napoli le hanno sempre fatto del bene, e rispetto ai luoghi comuni Napoli è profondamente indifferente, esprime una sua strafottenza meridionale nei confronti dei luoghi comuni, delle dicerie, degli elogi come delle maledizioni. Insomma, è una città che si è che è diventata leggendaria per questo, perché si è accumulata una quantità millenaria di dicerie su di lei, fa parte del suo aroma, del suo concime con cui si presenta e con cui fiorisce in giro per il mondo. Ecco, in questo delle nostre cronache italiane il mondo se ne infischia completamente, ma se succede qualcosa a Napoli ne parla. Perché secondo lei? Perché è diventata una città leggendaria, ce ne sono alcune nel mondo che non dipendono affatto dalla denominazione di patrimonio dell'umanità come pretende l'UNESCO, appartengono al sentire delle persone, al sentire del mondo, che ha una sua, che si è formato una nicchia nella quale inquadrare questa città. Pregi e difetti di Napoli secondo Henri De Luca. Appunto, è una città leggendaria. Ed è una città che io ho visto cambiare proprio addirittura di geografia. Era una città del sud d'Italia, ma anche del sud del mondo. Aveva la più alta mortalità infantile d'Europa. I bambini che scampavano a questa decimazione poi andavano a lavorare a 4-5 anni, saltando l'obbligo scolastico. Era una città che aveva antiche epidemie, tutte sue, insomma, ancora negli anni 70 riusciva a avere una epidemia di colera, e poi aveva il dubbio onore di ospitare la sesta flotta degli Stati Uniti d'America, che lì aveva la sua base centrale nel Mediterraneo e che trasformava quella città nel più grande bordello del Mediterraneo. Avete ascoltato la seconda edizione di Italia in Controluce, io sono Daniele Biacchessi, ci risentiamo domani alle ore 6:30.